tornati e chiedo asilo, un saluto da chi tornati e chiedo asilo, un saluto da Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Oggi tu dovevi dire, è la tua festa. È la tua festa, Drago. Come la mia festa? Sì, oggi è la festa della donna. Cosa c'entro io? Guardati, sei un po' femminile oggi, Drago, con tutto quel rossetto. No, ma che rossetto? Sono solo i capelli cotonati, ma quello sai, può succedere ogni tanto, mi asciugo male. Comunque è una festa questa qui della donna, dell'8 marzo, che mi sembra che sia sempre meno sentita. Ma da chi? Dagli uomini o dalle donne? Da tutti, cioè è un po' vecchiotta come fenomeno. Ma non dire così, stamattina ho scansato almeno 10 venditori ambulanti di mimose, 10. Appunto, li hai scansati. Se avessi sentito la festa, li avresti comprati qualche mazzetto. E a chi li davo? Per Suor Dentona, sì, qui, no? Sì, Suor Dentona, non è mica una donna, è una suora. Cappa, per favore, adesso, dai. Sono una suora, non sono una donna, non regalarmi le mimose che non sono una donna. Vabbè, c'era la canzone, no? Famosa. Sono una donna, non sono una santa. Il messaggio era proprio l'opposto. Vabbè. Di sono una suora, non sono una donna. Perché? Perché era una donna che si liberava, no? Comunque l'8 marzo è la festa delle donne. Mai sentito dire che fosse anche la festa delle suore. Ma non capisco perché insisti in questa tua divisione tra donne e suore. Le suore sono donne. Sono donne in quanto non sono uomini, sono di genere femminile. Sì. E la festa dell'8 marzo riguarda le donne, qualsiasi mestiere facciano, qualsiasi scelta. Sì, però io le mimose non le ho comprate, le ho scansate. Te l'ho detto, fino a qualche anno fa mi sembra che ci fosse più enfasi sull'8 marzo. Magari mi sbaglio, magari attribuisco alla società intera cambiamenti che sono solo miei e quindi faccio questo sbaglio. Perché tu avevi un trasporto l'8 marzo, ti veniva da celebrare che, io le compravo le mimose a tutte le amiche più care. 4-5 mazzi. Alle amiche? Sì. Ma amiche. Amiche, ti sto parlando della mia adolescenza, quando ancora c'era un po' di innocenza, no? Erano amiche comunque, no? Pensa che le compravo anche a mia mamma, le mimose, solo che lei è allergica e ogni volta l'8 marzo me le dimenticavo, gli portavo le mimose, lei mi cacciava di casa, mimose e tutto. Tutto molto interessante, eh? Sembra come le interviste alla gente di Bologna sulla morte di Lucio Dalla, no? Quando il soggettivo diventa universale, anzi ha la pretesa di diventarlo. Lucio Dalla è entrato nel cuore di tutti. Sì, Drago, è sarcasmo questo. Non so, però. Cioè non è interessante quello che dici. Ma in ogni caso, buon 8 marzo a tutte le ascoltatrici di Chiedo Asilo. Fateci sapere su Facebook se è vero o no che qualche anno fa l'8 marzo era più sentito, non so. Laura, ma perché fateci sapere a chi? Ma non lo so, a chi, Laura. Per me è importante l'8 marzo, sempre importante. È lo spread che fine ha fatto? Si è abbassato, è moscio. Non è più lo spauracchio che era, hai capito? Moscio, sembra di no. Povero spread, moscio. Un po' come quei personaggi televisivi che hanno il loro momento, quello di gloria e poi spariscono, capito? Ma tipo? È tipo il bidello non famoso dell'Isola dei Famosi. Carlo Capponi. Eh, ma quello lì è scomparso perché... è morto. Eh sì, ma invece lo spread non è... è morto. È lì che cova nelle ceneri. Cosa fa? Cova nelle ceneri. Cova cosa nelle ceneri. Come il famoso l'uccello cenerino. Cova nelle ceneri l'uovo. Ho capito. Non sai niente, non Drago, niente. Di fauna. Ornitologia proprio. Comunque, lo spread è lì che sta calmo, quieto, ma è pronto a ripartire più forte di prima, capito? Ma non mica passata. Ma scusa, tu mica sei salvadanaio, scusa. No, Tito, adesso basta geure però allora, che eh? Casino. Dai, allora lo spread non torna più su. Quindi Super Mario ce l'ha fatta, possiamo dirlo? Ma non so, io non abbasserei mai la guardia con lo spread, perché poi dopo sai com'è. Poi ci sono i boom dei BTP che vanno su. Siamo quasi al crack, lo spread. lo spread che sale. Se l'euro è un flop, vedrai che poi questo default ci tocca a noi. Se il debito di tutti, perché paghiamo noi? Super Mario, dove sei? Super Mario, cosa fai per questo spread? Lo spread, c'è lo spread, siamo tutti red, in red. Per lo spread è troppo sad, che sad. Questo spread, si mettesse un po' la bici e a stampare nuovo cash, lo spread. Soldi, quanto non ne hai, tu sei povero? Appunto, prestami 50 euro, eh. Spread o non spread, le riforme del governo Monti non si fermano più. Adesso tocca la scuola. Anche. Il ministro Profumo ha annunciato a un paese semiallibito che tra 2 o 3 anni al massimo verrà lanciato il nuovo liceo sportivo. Ma come? Sperimentale sportivo? Liceo sportivo proprio, si chiamerà così. Dopo il liceo pedagogico, quello musicale, quello biologico e chissà quanti altri ce ne sono. Io ho perso il conto. Finalmente anche i ragazzi sportivi avranno il loro liceo e non come adesso che chi è sportivo fin da ragazzo, chi pratica sport agonistico di solito smette di studiare, capito? Oppure smette di fare sport anche. Ma col liceo sportivo questo ipotetico ragazzo sportivo potrà imparare il latino e la trigonometria senza smettere di allenarsi, fare i 100 metri. Lo fanno anche in America, ti puoi laureare senza studiare, se sei forte a football, a baseball. Grandi voti, grandi soldi anche per le borse di studio. Vabbè, il liceo sportivo alla fine però sarà, non è così. Il liceo sportivo non sarà così, però sarà un liceo normale, tipo un liceo scientifico, ha detto Profumo, ma scientifico, con tanta educazione fisica in più. La scienza c'entra con l'educazione fisica. Scienze motorie si chiamano. Ma tu l'avresti fatto il liceo sportivo? Ai nostri tempi non c'entra. Pensa che io mi facevo perfino esonorare da ginnastica, per finta. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. Wunderwaffer, il break che fa crack. Wunderwaffer è a base di segale cornuta e finocchi cotti. Può avere effetti indesiderati anche gravi, come la trasformazione di un soggetto sano in un adepto di comunione e liberazione. L'ingestione di una quantità eccessiva di prodotto può causare comportamenti che possono essere fonte di pentimento. Wunderwaffer può indurre egocentrismo, delirio di onnipotenza e crisi di identità. Le statistiche mostrano che numerosi transgender dichiarano di aver assunto quotidianamente Wunderwaffer per un lungo periodo. Non è stata però scientificamente dimostrata la connessione tra l'assunzione del prodotto e il desiderio di cambiare sesso. È sconsigliata la fruizione del prodotto ad un pubblico adulto. Non somministrare a bambini. L'ingestione di Wunderwaffer è dannosa per le donne in gravidanza e per un pubblico biondo. Le allucinazioni sporadicamente causate dall'assunzione del prodotto possono rendere l'individuo interessato preda di facile entusiasmo. Pertanto, i matrimoni contratti dopo ingestione di Wunderwaffer non sono riconosciuti dalla legge. Ma Drago, ma scusa, sto spot ha uno slogan che è Wunderwaffer, e poi una ventina di frasi di controindicazioni lette velocissime, tipo Outwin Rick. Capito, è così con gli svizzeri. Ma com'è così? Loro amano le clausole scritte piccole. Ma chi te l'ha detto? Gli svizzeri. In Svizzera? Siamo ai saluti del giovedì, che sono i saluti che K preferisce. No, è qui che suona, ma in realtà sta pensando sotto i baffi che non ha. Domani è venerdì. Venerdì. E allora, tutti domani, 16.45, chiedo asilo. Chiedo asilo a radio24.it, Facebook, YouTube e tutto quanto. Non smartphone. Si più niente. Vedi che ti fa le pernacchie. Eh no, infatti, uè. No, ha smesso. Vedi che. Vedi, spernacchie. Allora, Facebook, YouTube, tutte queste parole incomprensibili per voi significano qualcosa e per noi anche. A domani!